Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno, vedo che anche Peter Bescapè in regia, Tetragon in regia, così accenna quasi qualche movimento per seguire i Gazzosa che cantano questo WWW mi piaci tu, credo fosse un Sanremo di un bel po' di anni fa. Allora, perché questa scelta effettuata con Marco Lombardo e così un po' sorprendendo, mi immagino, anche Deborah Rosciani, che ancora oggi non c'è, ma domani ritorna qui in conduzione con me. Perché questa scelta? Perché allora il governo sta pensando a un portale unico per questo ecobonus del 110%, che è un po', diciamo, la notizia che sta trainando tutte le varie disposizioni che sono contenute nel cosiddetto decreto legge rilancio, il decreto legge 34. Oggi sul Sole 24 Ore riferiamo di questo intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che ha annunciato di stare lavorando insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Economia per un portale unico e spiegare a operatori, tecnici e cittadini come si possono svolgere i lavori e come si può, soprattutto questo ci interessa, usufruire del super bonus. Su questo portale unico, ha detto il sottosegretario, verranno caricate le linee guida, le circolari e tutti i documenti. Lui lo ha annunciato intervenendo, in modo naturalmente da remoto online, al convegno dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori. Insomma, questo portale unico dovrebbe agevolare tutti quelli che sono interessati, tutti quelli di noi che sono interessati a far partire questo lavoro, che dovrebbe consentirci addirittura di disporre i lavori e non dover mettere un centesimo, perché appunto abbiamo questa copertura più che totale da parte del fisco. E, tra l'altro, Fraccaro ha anche detto, ma su questo poi magari bisognerà attendere decisioni di tutto l'esecutivo, che si potrebbe pure prolungare questo intervento oltre il 2021, questo rispondendo a una richiesta che ha fatto il presidente ANCE Gabriele Buia. Ha detto il sottosegretario, c'è naturalmente un vincolo di risorse, però sarebbe importante riuscire ad estenderlo almeno al 2022 per avere una soglia temporale che permetterebbe di utilizzare con maggiore agio questo super bonus del 110%. Io vi ricordo che di questo super bonus abbiamo già parlato a Due di Denari. Lo abbiamo fatto venerdì scorso, trovate la puntata sul sito di Radio 24, potete riascoltarla collegandovi a www.radio24.it e cercando nella sezione dei programmi Due di Denari. Lì trovate la puntata in cui venerdì scorso i nostri esperti hanno cominciato ad affrontare quello che si può intuire e ragionare del super bonus al 110%. Naturalmente, come sempre in questi casi, c'è la necessità di tutta una serie di misure attuative, quindi sicuramente ne parleremo ancora. Non lo faremo oggi perché oggi è giovedì e allora le tradizioni vanno rispettate. E oggi, il giovedì, noi abbiamo Investire Informati, quindi avremo un esperto, come sempre, di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari. Avremo ospite Alberto Zorzi, che è responsabile di direzione investimenti di Arca Fondi SGR. Alberto Zorzi ci aiuterà a decifrare quello che succede sui mercati finanziari, come dobbiamo gestire le informazioni che ci arrivano non solo dal mercato italiano, ma un po' anche dalla politica, dalla grande politica mondiale, tensioni, non tensioni, insomma, tutte le cose che in qualche modo turbano o muovono l'andamento dei listini e le nostre scelte per dove allocare i nostri risparmi. Prima di tutto questo, però, e ringraziando Luca Cremonese, che vedo là multitasking in regia tra telefoni, computer e tutto quanto, ringrazio anche Marco Lombardo, sempre vigile da remoto. Caro Peter, per cortesia, io vorrei partire con il giornale radio del risparmio, se non è troppo disturbo. Meazza con Rosciani la mattina, In sordi sola meglio medicina. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo. Lo so. Anche ieri abbiamo usato questa siglettina del Serpente Corallo, dei Chapter 11, come sapete questo gruppo che si esibisce no profit per beneficenza appunto qui dal Sole 24 Ore, gruppo del quale faccio parte anch'io. Perché ogni giorno ha la sua truffa, verrebbe da dire, e siccome Serpente Corallo per noi è un po' l'animale che simboleggia la truffa, oggi vi dobbiamo riferire di una classica, direi, truffa finanziaria che è stata scoperta in Calabria, dove si promettevano interessi addirittura fino al 40%, e certo una percentuale così, insomma, qualche sospetto dovrebbe muoverlo in chi affida i propri denari. Si promettevano interessi fino al 40%, in realtà gli strumenti finanziari che venivano offerti erano fasulli, era una struttura piramidale, quindi canonico schema Ponzi, chi entra dopo paga chi è entrato prima finché la cosa funziona, e tra l'altro anche in assenza di qualsiasi autorizzazione. Truffa nella quale sono caduti, riferiscono le cronache, un centinaio di risparmiatori in tutta Italia. La truffa è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. È stato ieri mattina eseguito un decreto di sequestro per 1,5 milioni e mezzo di euro a carico di 3 persone. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata. Sono state trovate disponibilità finanziarie su conti correnti non solo in Italia ma anche a Tenerife, e poi terreni, oggetti preziosi, insomma quant'altro poteva essere utilizzato, in quant'altro poteva essere comperato per, utilizzando appunto i conti e gli investimenti degli ignari risparmiatori che erano caduti nella truffa. Qualche notizia qua e là di interesse. Allora, oggi quarto e ultimo inserto di illustrazione del decreto legge rilancio, quest'oggi le misure per le imprese in edicola con il Sole 24 Ore, vi ricordo è il quarto perché sono usciti in precedenza venerdì scorso 22 maggio e sabato 23 maggio i primi due inserti, poi ieri quello proprio dedicato ancora al bonus del 110% ai lavori in casa. Gli abbonati al nostro sito www.ilsole24ore.com possono accedere, abbonandosi appunto, anche a questi arretrati, a questi allegati arretrati. Oggi in edicola con il Sole 24 Ore, ripeto, le misure per le imprese, gli aiuti per le imprese contenuti nel decreto legge rilancio numero 34. La ARERA ha integrato, per così dire, le sue misure, perché dal 1 gennaio del 2020 i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, che appartengono alle tipologie indicate, possono eccepire la prescrizione per importi che siano stati loro fatturati relativi a consumi che sono più vecchi di 2 anni, cioè sono andati più indietro rispetto a 2 anni. La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2020. È stata poi in questo modo integrata, diciamo implementata da ARERA, dall'autorità appunto regolatoria della materia, che ha adeguato l'informativa ai clienti e agli utenti. Prima di questa novità, che adesso impedisce appunto di andare all'indietro rispetto ai 2 anni, la prescrizione veniva esclusa solo nei casi in cui ci fosse una mancata o erronea rilevazione dei dati che derivava da una responsabilità dell'utente. Restiamo in territorio di bollette perché dobbiamo segnalare una buona che poi in realtà non è così tanto buona notizia, e cioè da marzo a maggio sono calate del 7,2% le bollette per l'elettricità, del 10% quelle per il gas. Il lockdown quindi ha influenzato diciamo, anche questo andamento, si riduce il costo della materia prima di luce e gas e si condizionano di conseguenza i prezzi per il mercato libero e le offerte ai consumatori. Facile.it ha condotto una simulazione su un panel di 5 compagnie sulle relative offerte e quindi si rileva che in 2 mesi i costi per gli utenti finali si sono ridotti appunto del 7,2% per l'energia elettrica e del 10% per il gas. Dicevo, è una buona notizia. Effettivamente pagare qualcosa in meno non è una buona notizia, perché purtroppo è dovuto al rallentamento generale dell'economia, che poi si fa sentire anche con effetti negativi su altri aspetti. Il decreto rilancio, tra le tante cose che fa questo decreto legge numero 34, congela anche i pignoramenti su stipendi e pensioni. Quindi fino al 31 agosto chi fa da sostituto d'imposta, il datore di lavoro classicamente, non deve trattenere le rate. Lo spiega, lo ricorda oggi Antonello Orlando sulle pagine del Sole 24 Ore, naturalmente nella sezione di norme e tributi. Decreto legge rilancio è l'articolo 62 che interviene a favore della liquidità dei lavoratori e dei pensionati, quindi congela le rate dei pignoramenti che sono in corso di esecuzione da parte dell'agente della riscossione. Tra il 19 maggio e la fine di agosto, il 31 agosto, vengono sospesi gli accantonamenti obbligatori da parte del sostituto di imposta, accantonamenti che erano stati stabiliti in forza di pignoramenti, ovviamente, che erano già efficaci prima di questa disposizione. Siamo in chiusura, vi do solo una segnalazione di una sentenza su cui avremo secondo me occasione di tornare, perché si riferisce alla annosa vicenda della vendita delle azioni delle banche venete. Il Tribunale di Brindisi ha condannato con quella che dovrebbe essere la prima sentenza in Italia al risarcimento del danno Banca Apulia, perché aveva ceduto, aveva venduto titoli di Veneto Banca, titoli che appunto non erano stati poi bocciati come operazione. Si tratta di una sentenza storica destinata a fare giurisprudenza, dice l'avvocato Emilio Graziuso, che è responsabile del coordinamento Confconsumatori, ha difeso nel processo civile il risparmiatore che si è visto riconoscere un risarcimento di 81.649 euro più gli interessi. Notizia quindi di carattere finanziario, e di carattere finanziario sarà tra pochissimo, lo ascolteremo anche il messaggio lasciato alla nostra rubrica Dillo a Due di Denari, quindi tutto, diciamo, ci porta verso Investire Informati. Io vi ricordo i numeri di telefono per entrare in contatto con noi, oggi importanti, specialmente il numero verde, perché faremo anche il domandone naturalmente. Allora, il numero verde che serve per intervenire in diretta e per il domandone è 800 24 00 24. Se volete inviare messaggi con SMS o WhatsApp, quindi anche messaggi vocali, 349 238 6666. E adesso Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, mi chiamo Carla. Per favorire un progetto di una delle nostre figlie, avremmo pensato di vendere la nuda proprietà dell'appartamento in cui viviamo. Ci avanzerebbe poi una somma intorno ai 120-140 mila euro, che per noi sarebbe però essenziale per far fronte ad eventuali imprevisti. Come investire questi denari in modo sicuro? Grazie di un consiglio. Allora, è chiaro che, come sempre, noi non diamo informazioni, consigli di investimento su un prodotto piuttosto che un altro, ma con Alberto Zorzi, che è già in collegamento con noi, e gli do subito il benvenuto. Buongiorno, benvenuto Zorzi, cominciamo tra un istante. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, cominciamo tra un istante e vedremo anche di decifrare appunto quali sono attualmente le condizioni dei mercati finanziari, quali sono i settori, le tendenze che possono sembrare più così premianti, usiamo questo termine molto neutro, e poi ogni risparmiatore deve individuare naturalmente le sue puntuali esigenze e decidere di conseguenza. Se ci vuole far aiutare poi da un esperto, specialmente per certi prodotti, diciamo che è sempre meglio. Ma tutto ciò premesso, sigla: Investire Informati. Investire Informati. Investire Informati con Alberto Zorzi, responsabile direzione investimenti di Arcafondi SGR. Allora, buongiorno Zorzi, ha sentito la nostra ascoltatrice, dice: vorrei un indirizzo sicuro, e chi non lo vorrebbe, certo. E, non so, vogliamo partire da una cosa più generale. È abbastanza rassicurante per dire quello che è stato varato ieri, il processo che si è iniziato ieri con questi aiuti da parte dell'Unione Europea, aiuti che poi adesso devono avere tutto un percorso di approvazione, però questa sembra una buona notizia. Infatti oggi i mercati vedo che virano tutti nel positivo, vanno tutti nel positivo. Qual è la sua valutazione, Zorzi? Beh, sicuramente una discontinuità importante rispetto ad atteggiamenti che abbiamo visto anche in passato dal mondo della politica e delle istituzioni. Si aggiunge a dei piani massicci, giganteschi direi, di intervento sui mercati da parte delle banche centrali, non solo in Europa ma in tutti i principali paesi e le principali economie, e questo in qualche modo ha messo fine già nelle scorse settimane in realtà a una fase di vendita indiscriminata che portava gli investitori a liberarsi di qualsiasi attività rischiosa indipendentemente da una valutazione o un'analisi di merito sul singolo investimento. E tra l'altro questa cosa sembra già essersi, come dire, modificata se andiamo a vedere i dati di Assogestioni sulla raccolta di aprile, perché naturalmente nel primo momento dello shock sanitario, nello shock della pandemia, c'era stato un andamento negativo della raccolta da parte dei prodotti del risparmio gestito, mentre ad aprile, segnalato Assogestioni, l'industria del risparmio gestito ha realizzato una raccolta netta positiva per più di 2 miliardi di euro. 2,05 miliardi di euro, quindi il patrimonio gestito è aumentato, e questo dato di aprile è per la prima volta da inizio anno un dato positivo, mentre nei mesi precedenti c'erano stati dei saldi negativi. Insomma, sembra quasi che stia tornando un pochino di sereno, Zorzi, sui mercati e anche sul risparmio gestito in generale? Ma è un dato che sicuramente fa piacere a noi dell'industria, che testimonia di un rasserenamento del clima. Come dicevo in precedenza, quando c'è stata la fase di maggiore incertezza sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista delle prospettive economiche, molti investitori hanno reagito direi in modo istintivo vendendo qualsiasi cosa, e questo si è riflesso anche nei dati di raccolta che in realtà, bisogna anche tenere presente, sono stati in qualche modo influenzati dal fatto che la distribuzione di determinati prodotti in Italia è molto vincolata al fatto che gli investitori si rechino presso le agenzie delle banche. Come sappiamo, le agenzie sono state o chiuse o comunque con un'operatività fortemente ridotta. Quindi c'è stato anche un po', diciamo, la necessità di riconvertirsi a delle modalità operative differenti, e questo spiegherebbe, insomma, la frenata di marzo e poi la ripresa. Evidentemente è arrivato poi per tempo una modifica delle abitudini, dei comportamenti, appunto, di vendita, di lavoro. Ecco, c'è però un discorso più generale che vorrei affrontare con lei, dottor Zorzi, ed è, cominciamo ora, poi ci fermeremo naturalmente per l'aggiornamento dai mercati finanziari, ed è l'argomento di alcuni grandi trend. So che a volte si dice anche i mega trend. Ad esempio, prima di tutto questo, prima che succedesse tutto questo pasticcio del coronavirus, molto si parlava di criteri ESG, molto si parlava anche di sostenibilità non solo ambientale. Sostenibilità vuol dire anche corretta gestione di un'azienda, e questo pareva essere un po' il punto che in un mondo a tassi zero, poi le chiederò anche se siamo usciti o no dal mondo a tassi zero. In un mondo a tassi zero sembrava essere il percorso più promettente. Allora vorrei intanto capire se queste cose dobbiamo archiviarle, perché adesso dobbiamo pensare ad altro e allora dobbiamo cambiare anche questa prospettiva, o invece l'attenzione alla sostenibilità in genere è ancora un argomento forte. Un argomento molto forte, molto attuale, e anzi anche i piani di intervento che menzionava lei all'inizio vanno nella direzione di investire in quelle che sono le aree e le infrastrutture del futuro, e che quindi tengono in considerazione tematiche sia ambientali che sociali. È in realtà un tema molto ampio al quale manca un quadro normativo e in generale degli standard che aiutino gli investitori a muoversi e a effettuare decisioni. Mancano quindi, diciamo, dei criteri univoci, c'è un po' di confusione. Faccio un esempio: per i rischi di mercato gli investitori hanno a disposizione la classe di rischio del prodotto, sì, un dato molto intuitivo in una scala da 1 a 7 che dà un'idea quantomeno di larga massima all'investitore. E che dovremmo, dovremmo sempre noi investitori, noi risparmiatori, guardare con molta attenzione qualsiasi cosa ci venga proposta e così via. Assolutamente. Prego. Assolutamente sì. No, dicevo che ecco, una misura equivalente, no, per quanto riguarda le tematiche ambientali, sociali e di governo sarebbe sicuramente utile. Vengono effettivamente prodotti dei rating, vengono prodotti anche a livello di singolo fondo, oltre che a livello delle singole componenti del fondo, ma sarebbe opportuno avere degli standard condivisi a livello di industria. Eh sì, perché questo probabilmente eviterebbe anche qualche così mano di verde, per così dire, data magari su prodotti che non sono esattamente come dire, in linea o compliant, ecco, se vogliamo usare un termine che oramai è diventato di uso comune. Le chiedo, dottor Zorzi, di attendere un attimo e di ascoltare con me gli aggiornamenti dai mercati finanziari, cioè insomma in una parola le borse, che quest'oggi sono affidate ad Anna Marino. Le borse. Rosciani, Meazza, portano la borsa alla piazza. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... di denari. E non ha lunedì nero, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Allora, bentornati, stiamo chiacchierando con Alberto Zorzi, responsabile di direzione investimenti di Arca Fondi SGR. E si stava ragionando sulla sostenibilità che è stata un tema assolutamente in evidenza fino a, naturalmente, che il Covid non ci ha sorpresi e costretti a modificare pesantemente molte delle nostre abitudini. Io vorrei però farle una domanda un po' così brutale, dottor Zorzi, se mi permette, ed è questa. La sostenibilità, spesso a dire di un prodotto che è sostenibile, che è attento all'ambiente, che si investe in aziende che sono attente alla loro struttura societaria, alla struttura di governance e così via, sembra quasi voler dire che però sul breve termine insomma si guadagnerà poco, si guarda a un profilo futuro. Ma è proprio così, cioè veramente scegliere prodotti finanziari, strumenti finanziari sostenibili o comunque con un'attenzione alla sostenibilità significa rinunciare a qualche rendimento più di soddisfazione nel breve? No, direi di no. I temi della sostenibilità, quindi ambientali, sociali, sono temi che vengono integrati all'interno del processo di investimento da parte degli investitori, sono uno dei tanti fattori che vengono presi in considerazione, ma non è qualcosa che va a detrimento del rendimento. Tra l'altro potrebbe essere esattamente il contrario. Se noi andiamo a ragionare in termini di efficienza ambientale, l'essere leader in determinati ambiti, raggiungere livelli di eccellenza sul fronte delle emissioni può comportare degli investimenti magari nella fase iniziale, ma dove c'è un programma preciso, serio e capito da parte del mercato degli investitori, questo non si riflette assolutamente in una minor valutazione dell'investimento. Quindi lei dice in realtà si tratta anche di farsi capire dal mercato, e non è detto che questo significhi, questa attenzione alla sostenibilità significhi un dover rinunciare magari a qualche recupero. La domanda aveva ovviamente un sottinteso, ma immagino che lei l'abbia capito benissimo. In questa fase in cui abbiamo subito, abbiamo visto una robusta riduzione di tutti i listini, insomma uno magari cerca anche di massimizzare il recupero, ma forse questo non è l'atteggiamento giusto, cioè andare a cercare chissà quale occasione nel brevissimo. Cosa dice Zorzi? No, quelli sono comportamenti speculativi, chiaramente ci sono operatori che di mestiere fanno quello, chi fa trading ha una logica di brevissimo periodo, ma chi opera sul mercato con un orizzonte medio-lungo e con la logica appunto del gestore, della gestione dei risparmi, ragiona su temi e va a cercare opportunità in premi al rischio, quindi prendendo rischio, ma laddove questi premi al rischio hanno possibilità di trasformarsi in rendimento in un periodo di tempo adeguato. Quindi naturalmente proprio poi ognuno ha il suo orizzonte temporale, questo lo ripetiamo spesso qui a Due di Denari, specialmente il giovedì quando abbiamo Investire Informati, è importante anche valutare qual è la propria aspettativa temporale, insomma una persona di 20 anni può averla di un tipo, una persona di 60 ovviamente ha un orizzonte, può avere un orizzonte temporale differente. Lo so che è un'ovvietà, Zorzi, però forse anche questo è una considerazione che va sempre fatta quando si ha a che fare con i risparmi delle persone. Sì, va sempre ribadito, ha perfettamente ragione, è molto importante ragionare su quelli che sono i propri obiettivi, la propria propensione al rischio e il proprio orizzonte temporale. Spesso quando qualcuno chiede consigli per gli investimenti trova naturale chiedere se sono meglio le obbligazioni piuttosto che le azioni o un'area geografica rispetto all'altra. Questo è un atteggiamento sbagliato dal punto di vista della gestione del risparmio. Bisogna capire perché risparmiamo, questi risparmi ci servono domani o ci serviranno un domani molto lontano, no? E quando l'orizzonte temporale è medio-lungo, bisogna andare a cercare opportunità di rendimento laddove, come dicevo prima, i premi a rischio permettono al tempo di far trasformare questi premi a rischio in rendimenti. E queste sono le attività rischiose tipicamente, quindi il mondo azionario e il mondo delle obbligazioni societarie. C'è una domanda che ci è arrivata via WhatsApp, vi ricordo il numero 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, invece il numero verde tra pochissimo daremo il domandone e allora dovrete usare per rispondere solo il numero verde 800-24-0024. Dicevo della domanda, più che una domanda è quasi una, così, un giudizio, e vorrei chiedere a lei Zorzi se lo condivide. Il mondo a tassi zero sarà per sempre o quasi, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice. Perché non ci dà modo di comprendere se è ascoltatore o ascoltatrice. Lei condivide, insomma, cioè dovremo convivere un bel po' con i tassi zero? Ma penso di sì. Se pensiamo a cos'è successo dopo la crisi del 2008-2009, il mercato finanziario per eccellenza, che sono gli Stati Uniti, hanno portato i tassi a zero alla fine del 2008, e sono rimasti a quei livelli fino alla fine del 2015, quando abbiamo visto il primo timido rialzo, quindi stiamo parlando di 7 anni. E è verosimile che rivedremo un percorso simile, se non addirittura più lungo. Diciamo che in questo momento le banche centrali stanno ancora ragionando se non sia il caso di aumentare addirittura la mole di interventi che hanno deciso, quindi il tema di un eventuale rialzo dei tassi di interesse, quantomeno di quelli ufficiali, è un tema che affronteremo veramente tra tantissimo tempo. Posto che questo intervento delle banche centrali è in una fase del genere, come quella che stiamo vivendo, un'ottima notizia, ma rispetto ad esempio all'andamento del mercato obbligazionario dei titoli di Stato, questo comportamento cosa provoca in linea generale? Ovviamente non stiamo dando un consiglio di investimento, Zorzi. Provoca che il mercato dei titoli di Stato ormai da lungo tempo peraltro vede diffusamente rendimenti negativi, soprattutto se uno va a vedere i paesi principali come sono la Germania, la Francia, un caso a parte l'Italia che è la periferia europea, sappiamo che ha determinati problemi, ma in generale i rendimenti dei titoli di Stato sono condizionati dalla presenza di un investitore che è la banca centrale, chiamiamolo un investitore, un compratore, che ha degli obiettivi che non sono quelli che abbiamo noi investitori, no? E quindi le opportunità di rendimento vanno necessariamente cercate altrove e il mondo delle obbligazioni societarie, soprattutto quelle con merito di credito elevato, cosiddette investment grade, ma anche magari società che non raggiungono questo livello ma che non sono molto lontane, sono sicuramente aiutate dalle misure che vengono messe in campo adesso dalle banche centrali, quindi pur in un contesto di tassi purtroppo bassi, diciamo così, dico purtroppo perché l'investitore desidererebbe sempre avere un ritorno certo, consistente nel breve, certo. È un ambito comunque nel quale sicuramente ci si può muovere con relativa fiducia. Allora, ci fermiamo un istante perché è il momento di lanciare il nostro domandone. Le buone abitudini non vanno perse. Sigla. Allora, è un dato che abbiamo fornito poco fa, e quindi se avete ascoltato la trasmissione è molto semplice, se no lo trovate anche sul Sole 24 Ore. Vogliamo sapere, e dovete risponderci componendo 800240024, non accettiamo risposte su altri canali, su altri numeri, vogliamo sapere a quanto ammonta la raccolta netta dell'industria del risparmio gestito per il mese di aprile, stando ai dati Assogestioni che sono stati diffusi ieri e che abbiamo ricordato poco fa. In aprile l'industria di risparmio gestito ha realizzato una raccolta netta, vabbè, lo dico, positiva, ma positiva per quanto? Vogliamo sapere quant'è questo valore positivo di raccolta netta. E allora rispondete telefonando a 800240024 e adesso è il momento del traffico. Di denari. accompagnato dalla storica musica di Rischia Tutto. Ripeto il domandone di oggi, risposte a 800240024. La domanda è: a quanto ammonta la raccolta netta positiva dell'industria del risparmio gestito nel mese di aprile? I dati a suggestioni sono stati diffusi ieri e hanno detto che l'industria del risparmio gestito ha avuto una raccolta netta positiva per... E quello è il numero che vogliamo sapere. Torniamo a ragionare con Alberto Zorzi, responsabile direzione investimenti di Arca Fondi. Zorzi, alcuni ci dicono, proprio collegandosi a quanto lei ci spiegava prima, certo, ma non ci sono obbligazioni, titoli di Stato, investment grade in euro con un rendimento sopra l'1%. È la nuova normalità in qualche modo, mi sembra di capire... anche non solo quest'anno, non solo nel 2020, ma presumibilmente insomma anche negli anni più in là dovremo muoverci in questo tipo di mondo. Diciamo che magari ci sono, perché abbiamo visto l'emissione del BTP Italia che è uscita a livelli che sono anche superiori all'1%. Giusto, però 1,4, in generale, sì. 1,4 il rendimento reale che viene offerto, però in generale è giusta l'osservazione che faceva. Il punto vero e sul quale noi insistiamo tantissimo anche nella comunicazione con i nostri investitori è che l'investimento risk free non esiste più, l'investimento privo di rischio non esiste più. Quindi l'investimento, il tasso a breve privo di rischio è negativo, no? E questo purtroppo è un dato di fatto al quale gli investitori in qualche modo si devono rassegnare, magari non lo percepiscono in modo così diretto come noi investitori professionali, semplicemente perché le banche commerciali sono ancora molto riluttanti a trasferire sul loro cliente al dettaglio questo costo, però i tassi di interesse di mercato sono negativi. Quindi ci si muove, diciamo, i professionisti del risparmio, gli operatori del risparmio si muovono in un mondo in cui gli investimenti sicuri non remunerano. Scusi, esatto, la brutalità, però questo è poi il senso ultimo. Quindi, non remunerano, ma costano, perché l'Euribor, che è un tasso di mercato a breve termine, è negativo tra intorno al meno 0,45%, adesso l'ordine di grandezza è questo. Quindi questo diventa poi una difficoltà, soprattutto per voi, penso Zorzi, a spiegare, per di più in un momento come questo, cioè in un momento nell'era del Covid-19, spiegare al risparmiatore: guarda, purtroppo non possiamo avere dei rendimenti mirabolanti come vorremmo tutti avere, ma bisogna muoversi con una prospettiva diversa. E qui dovremmo tornare in realtà al discorso della sostenibilità che lei faceva in precedenza. Ma e voi come riuscite a gestire questo con i risparmiatori, con i clienti? Bisogna lavorare molto sulla comunicazione e, come dicevo poc'anzi, spiegare che i rendimenti, avere rendimenti vuol dire prendere rischi. No? Noi aiutiamo i nostri investitori a muoversi, a selezionare, a prendere esposizione ad attività rischiose dove da soli magari non vogliono muoversi o non, in alcuni casi magari non è neanche opportuno che si muovano, però il concetto fondamentale è che bisogna decidere in modo fermo che una parte del proprio portafoglio va indirizzata al medio-lungo termine, esponendosi a dei rischi di mercato in modo oculato e congruo anche con la propria propensione al rischio e col proprio livello di risparmio. Ecco, con la proprietà. Infatti, allora ci sono due diversi messaggi naturalmente che ci stanno arrivando, grazie come sempre dell'attenzione con cui ci seguite. Uno, un ascoltatore lamenta, dice: io ho dei fondi a lungo termine ma li vedo sempre in perdita. Allora qui verrebbe da dire, ci sarebbero diverse domande da fare forse all'ascoltatore, ma quanto è lungo il lungo termine? Insomma, quando è ragionevole che un prodotto possa essere definito non soddisfacente, insomma, e quindi cambiare anche il tipo di prodotto? Capisco la frustrazione che può avere l'ascoltatore che ha fatto questa questa osservazione. Va detto che per quanto riguarda il caso specifico del Covid, noi ci troviamo davanti a un evento che è stato veramente dirompente e che non gestibile, non immaginabile, e che ha portato, come dicevamo all'inizio, anche tanti investitori a vendere in modo indiscriminato. Possiamo al tempo stesso dire che comunque sul mercato ci sono settori, ambiti, mercati che addirittura vedono rendimenti positivi da inizio anno. No? Se noi andiamo sul mercato americano, dove c'è il mercato dei capitali più sviluppato, ci sono settori che addirittura adesso da inizio anno sono positivi. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna saper costruire portafogli molto diversificati sia per tipologia di strumento che anche in ambito geografico. E anche per tempo, mi verrebbe da dire, rispondendo a questo ascoltatore, cioè forse se questo lungo termine non era poi così lungo, allora forse lo strumento per il lungo termine poteva essere qualcun altro. Non so, sto cercando di individuare, in realtà gli faccio dire cose che non ha scritto ovviamente, però per aiutare diciamo tutti noi, Zorzi, insomma, forse dobbiamo guardare a qual è l'orizzonte temporale per ogni tipo di prodotto, che di strumento che andiamo a scegliere, scegliendone più di uno, mi immagino. Scegliendone sicuramente più di uno e orientandosi anche su strategie gestionali differenti, perché una delle logiche che è opportuno considerare è quella di non, ad esempio, avvicinarsi al mercato azionario obbligazionario semplicemente guardando un parametro di riferimento come può essere il benchmark, ma anche a un parametro come può essere la volatilità dei prodotti, che è una misura di rischio. Dottor Zorzi, qualche ascoltatore torna alla carica su uno strumento che carsicamente, mi verrebbe da dire, cioè periodicamente torna alla ribalta, sono i conti di deposito. Allora, perché in questo momento, appunto, in cui uno cerca dei tassi, dei rendimenti migliori, magari sembra allettante? Io però d'altra parte ho notato in queste settimane da Covid che poi lì c'è un problema di liquidità, di liquidabilità dello strumento, che non è irrilevante quando noi decidiamo un investimento, se immaginiamo che quei soldi potrebbero servirci a brevissimo. Ho avuto un blip nella comunicazione, ha parlato del conto di deposito. Sì, perché molti ascoltatori periodicamente tornano con questo, è plausibile perché promettono rendimenti migliori in una fase in cui i rendimenti, ne abbiamo parlato fino a poco fa, sono molto bassi. Però poi il problema è che quando uno ha bisogno o si trova ad aver bisogno improvvisamente, ecco, i tempi di liquidabilità sono più lunghi e spesso sono punitivi per quello strumento lì. Teniamo presente che il conto di deposito prevede una remunerazione anche interessante per l'investitore, magari con delle penalità, come diceva lei, nel caso in cui poi dovesse in realtà voler riscattare il proprio investimento, ma dicevo, teniamo presente che il conto di deposito è un po' un investimento che tipicamente le banche commerciali fanno per guadagnarsi un certo cliente, quindi è un mercato molto particolare e molto limitato e che riguarda solo alcune tipologie di investitori al dettaglio, non è ad esempio qualcosa che interessano investitori professionali. E mi sembra di cogliere anche lei molto elegantemente, non si spinge oltre, ma non è un vero e proprio investimento che uno può fare, ecco, forse un accantonamento sarebbe il termine più indicato, ma non voglio farle dire cose che non ha detto. Invece siamo all'ultimo minuto e mezzo, allora io chiamo in causa gli ascoltatori perché abbiamo le candidature per rispondere al nostro domandone. Vi ricordo il domandone, che è di quanto è stata positiva la raccolta netta positiva dell'industria del risparmio gestito nel mese di aprile. Ci ha chiamato Ornella da Monza, buongiorno Ornella, ci dica. Buongiorno, 5,7 miliardi. Purtroppo non è la risposta esatta. Si è candidato però anche Salvatore da Verona. Allora Salvatore, stessa domanda anche per lei del nostro domandone: di quanto è stata positiva la raccolta netta positiva, scusate il bisticcio, dell'industria del risparmio gestito per il mese di aprile? Salvatore? 2,05 miliardi. Ah, caspita, anche le virgole. Bravissimo. Grazie. Salvatore. Peccato per Ornella, e poi quando ritorniamo a una certa tranquillità vi faremo avere anche un omaggio da parte qui della redazione di Due di Denari. Allora io ringrazio Alberto Zorzi, che è responsabile di direzione investimenti di Arca Fondi SGR, grazie di essere stato con noi, dottor Zorzi. Grazie a voi per l'invito, arrivederci. Grazie per averci aiutato a comprendere quello che sta succedendo nei mercati finanziari e anche a queste dinamiche non sempre così facilmente percettibili di questo mondo a tassi zero o addirittura di strumenti a tassi negativi, quindi che non solo non rendono ma addirittura costano, è il costo della sicurezza per così dire. A proposito di sicurezze, domani è sicuro che sarà di nuovo con me in conduzione Deborah Rosciani, quindi torniamo alle due voci, grazie alle sicurezze Peter Bescapè di là in regia e Luca Cremonese, nonché a Marco Lombardo. A domani.